Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, domani 4 gennaio il Guerin Sportivo compie 100 anni, niente meno. Ora, non vorrei essere irriverente, ma questo è un compleanno secolare che mi ricorda un po' quel secolo e mezzo compiuto dall'Italia lo scorso anno, e cioè ancora in gamba, per carità, ma è innegabile che abbia vissuto tempi migliori e non per colpa sua attuale. Il Guerino è stato storicamente un settimanale, anzi il settimanale sportivo italiano per eccellenza. Oggi è diventato un mensile ed è chiamato a fare i conti da anni ormai con un'attualità sempre più divorante, sempre più ingorda, con una TV che offre canali dedicati all'informazione sportiva 24 ore su 24, ed è inevitabile che abbia dovuto mutare pelle. L'autore, il responsabile di questo mutamento genetico più recente è il direttore attuale Matteo Marani. Buon compleanno innanzitutto. Grazie degli auguri, ben trovato. Gigi, un saluto a tutti. Ciao. Senti, visto che questo numero storico del centenario è in edicola da domattina, beh, insomma, anticipaci che cosa ci troviamo di particolare. Ma guarda, questo numero arriva intanto, diciamo, a compimento di un anno già di festeggiamenti per noi, nel senso che proprio mensilmente, come ricordavi tu ovviamente la nuova periodicità, noi abbiamo dato un inserto con la storia del Guerino, abbiamo ripercorso in 13 puntate 100 anni di storia di questo giornale, soffermandoci ovviamente molto per esempio sugli anni di Gianni Brera, ma anche quelli precedenti degli anni 30 con Carlin Bergoglio. Me li sono goduti, Noi abbiamo inventato il contenitore di quest'opera e la tredicesima e ultima puntata, che contiene anche proprio il racconto di questi ultimi passaggi e trasformazioni dettate ovviamente dal mutare anche del racconto sportivo. Poi abbiamo dato spazio ampissimo ai lettori, cioè abbiamo un po' ribaltato il ruolo, nel senso che non abbiamo fatto un numero fatto tanto dai giornalisti ma dai lettori. Ti interrompo un istante, per dire, è una formula che io qui sto usando nel mio piccolo da una dozzina d'anni, perché spesso e volentieri gli editorialisti, anziché essere personaggi paludati, sono gli ascoltatori stessi che intervengono in diretta, quindi ci troviamo su questa formula. Insomma. Sì, no, ma credo che fosse proprio giusto, non ci poteva essere miglior celebrazione che quella, come dire, compiuta direttamente dai lettori, che sono veramente l'anima del Guerin Sportivo, cioè sono quelli che hanno scritto e hanno permesso al Guerin Sportivo di arrivare a questa data eccezionale, perché nessun periodico sportivo in Italia è mai arrivato ai 100 anni di vita. Certo. Quindi grande spazio loro. Ti racconto anche un piccolo retroscena, nel senso che io inizialmente sul timone avevo previsto un certo numero di pagine e quelle pagine lì sono triplicate alla fine, cioè ho incominciato a buttare via tantissima roba per fare spazio a questi lettori che arrivavano e riversavano sulla redazione tantissima roba, disegni, ricordi, anche perché è un giornale, Gigi, molto generazionale il Guerino, cioè c'è un'identificazione fortissima, è stato il giornale, come ho scritto nel mio editoriale che uscirà domani mattina, è stato il giornale dei nostri nonni in alcuni casi, certamente dei nostri genitori, è il nostro oggi, io ai miei figli, spero e mi auguro, sono ancora piccoli, ma di trasmettere questa passione per il Guerino, che è anche un modo secondo me di approcciare lo sport, di vivere lo sport, è un modo di vederlo. Io ho usato un termine francese, cioè un esprit, insomma un sentimento che lo attraversa, e quindi diciamo grande spazio ai lettori. Abbiamo una rubrica di Amarcord dedicata soprattutto all'82, che fu il momento massimo del Guerino, col mondiale vinto in Spagna, fu l'unico giornale, lo ricordo, insomma, a schierarsi a favore della nazionale di Berzot. Abbiamo l'intervento di quelli che oggi sono i nostri, diciamo, due dei nostri opinionisti più importanti, che sono Gianni Mura e Roberto Beccantini. Ne andiamo molto fieri, quindi abbiamo affidato a loro il ricordo e poi tanta altra roba. Senti, tanta roba che mi immagino bene. Io faccio un passetto indietro, tornando all'ultimo numero, perché questo va bene, tanto in questo periodo di feste, anche se ci si complimenta un po' reciprocamente, non c'è nulla che non vada. Allora, la copertina precedente, l'ultima che ho in mano, perché questa poi nuova la vedrò come tutti domani, era discretamente profetica, perché era dedicata alla finale intercontinentale e tu nel dubbio ci hai schiaffato Messi in copertina, no? Non ti è passato per la testa di mettere Neymar o qualcuno dei brasiliani a occhio? No, non ho avuto dubbi. Poi se vuoi dopo ti lancio lì una provocazione, ti faccio finire e poi ti lancio una provocazione. No, lanciala subito. No, io bisogna che prima o poi incominciamo a discutere il valore di Messi. Cioè, nel senso, vogliamo incominciare a dargli una collocazione comparata alla storia o no? Perché io ogni volta che provo un po' a scomodare i santissimi del passato mi becco un sacco di offeso, ovviamente, perché se tu dici Messi può arrivare a superare Maradona, ti si scatenano contro tifosi di Maradona, pure napoletani e quant'altro. Io faccio sommessamente notare che a 24 anni questo ragazzo ha già vinto quello che nessun altro alla sua età ovviamente ha vinto, segna come non ha segnato mai nessuno, sì, cioè, è il miglior goleador d'Europa, quindi così è un gioco, questa è una provocazione mia, però vorrei incominciare a capire quanto Messi sta nella storia, perché secondo me è già sul podio sicuramente dei grandi miei tempi. Ah sicuro, come c'è il Barcellona come club, e il dubbio che coltiviamo adesso e che poi risolveremo nei prossimi anni, ma secondo me forse già nei prossimi mesi, è se tutte e due, Barcellona e Messi, non stiano invece al primo posto di questo podio, sia come squadra che come individualità. Mi sembra che la pensiamo abbastanza della stessa maniera. La seconda cosa profetica era nel tuo editoriale, dal titolo Tavoli amari, perché tu cosa hai fatto? Prima che andasse in scena la pantomima del cosiddetto tavolo della pace, avevi scritto quanto segue. I quotidiani assicurano le presenze, ripeto, prima che si sapesse come andava a finire, accanto a Petrucci, Abete, Moratti, Agnelli, Diego Della Valle e Adriano Gagliani. Il primo per aver lanciato mesi fa l'originalissima proposta, il secondo perché rappresenta un sodalizio vincente. Detto tra noi, mi chiedo come mai Genoa, Bologna, Torino, persino Provercelli siano rimaste fuori, visto che pure loro avrebbero vinto qualcosa. Ma Della Valle ha gradito i grandi giornali dal momento che metà li comanda. Gagliani guida l'altra metà e un po' tutti con la sua astuzia. Tuttavia, riassumendo la nuda cronaca, al tavolo siederebbero al momento Andrea Agnelli, ossia il presidente della squadra più inquisita per Calciopoli, Massimo Moratti, capo di un Inter sulla cui testa pende comunque una prescrizione per illecito sportivo, Diego Della Valle, condannato penalmente a Napoli per frode sportiva, Adriano Gagliani, squalificato per 5 mesi proprio in seguito a Calciopoli, più l'incomprensibile De Laurentiis, forse invitato per parlare del cinepanettone in uscita. Perché ho letto questo passaggio per il quale mi congratulo? Perché il Guerino negli anni, ma nel centenario, ha sempre avuto anche questa caratteristica, quella di una bella aggressività polemica quando era ora. Ma io, guarda, sono cresciuto qua dentro, nel senso che per me sono 20 anni di quei 100 del Guerino, quindi credo un pochino di aver assorbito in questi anni il modo di vedere appunto lo sport in maniera un pochino più critica, io credo più disincantata, insomma, con quel distacco che è sempre necessario nell'analizzare le cose. Mi sono, come dire, sciroppato e bevuto paginate intere di Brera, anche perché nel tempo libero poco che avevo qua dentro andavo a leggermi questi paginoni, questi lenzuoloni di Brera. Io per esempio un debole ce l'ho per Luciano Bianciardi, che è stato un altro grandissimo su Guerin Sportivo. Tra l'altro l'altro giorno non c'entra nulla, ma apro e chiudo una parentesi, leggevo delle cose di Bianciardi scritte nel 70 che tu dici ma come caspita faceva nel 70 a capire dove saremmo arrivati oggi, per esempio una cosa che diceva Bianciardi sul Guerino, per dire che cos'era anche quel Guerino, diceva ai ragazzi allora in strada per la contestazione, diceva non dovete occupare le università, dovete occupare le banche, perché il potere è nelle banche. Riletto oggi mi mette quasi i brividi. Effettivamente. Straordinario. Quindi dicevo, ecco, quello è stato quindi un impasto, essere cresciuti qua dentro, aver sentito quel tipo di clima, aver avuto anche grandi direttori con cui ho avuto la fortuna di lavorare, Italo Cucci, Marino Bartoletti, è stata veramente una grandissima scuola il Guerino per me. Credo che mi abbia trasmesso anche un pochino di libertà nel giudizio, solo questo. Sulla vicenda del tavolo, come facevo a esimermi dal dire che al tavolo c'erano tutti i carnefici e le vittime erano fuori da quella stanza? Ha cominciato da Gazzoni Frascara e da quelli che ci hanno rimesso davvero, grazie a lor signori, no? Cioè, ho scritto che era come se avessero chiamato Tanzi e Cragnotti a offrire ricette per uscire dalla crisi economica. Fantastico, infatti. Proprio così è andata. Senti, adesso ti chiedo di essere un po'. No, tempo ne abbiamo più avanti, ma abbiamo un intervallo tra un minuto scarso. Tu al Guerino ci sei, nonostante la tua giovane età, ci sei da 20 anni ormai. Ci sono da 20 anni. Io venivo dalla scuola di giornalismo, chiesi di fare lo stage al Guerino. Ho avuto, si può dire, culo in radio, un culo stratosferico di essere preso giovanissimo. E allora ancora funzionava così, i giornali prendevano anche i ragazzi, cosa che oggi ormai è desueta, sì. Abbiamo perso questa bella abitudine, quindi mi presero a 22 anni, ragazzo di bottega, tenevo il rapporto con i lettori, che per me è stata una palestra fondamentale perché mi ha fatto capire cos'è per i lettori il Guerin Sportivo, e poi sono man mano cresciuto, ho fatto tutti i miei passaggi, avevo grandi direzioni, ho imparato tantissime cose, la seconda botta di fortuna, stavolta la chiamo così, è veramente aver potuto lavorare con Bartoletti, con Cucci, cioè faccio fatica a dire quanto hanno trasmesso e quanto ti insegnano anche soltanto nel guardarli e nel seguirli. E poi ho fatto un po' tutti i passaggi, ho fatto il ragazzo di bottega, poi ho fatto il redattore, poi ho fatto l'inviato, poi ho fatto il vice direttore, finché nel 2008 ho preso questo testimone pesante, vuol dire magnifico ma anche ovviamente molto scomodo della direzione del Guerino, non mi potevo sottrarre, avevo capito che toccava a me in quel momento lì, per cui l'ho raccolta dovendo affrontare certamente un passaggio difficile, delicato, storico, come la trasformazione di quello che era un settimanale in mensile. Matteo, è una gavetta come quella che facevano gli allenatori di un tempo, mentre oggi, come noto, alcuni vengono paracadutati direttamente sulle panchine più illustri e poi qualcuno è capace di nuotare e lo dimostra, e qualcuno magari no. Torniamo in collegamento con la direzione del Guerin Sportivo e con Matteo Marani. Poi nella seconda parte del programma ci sarà un direttore leggermente più âgé, visto che prima Matteo ha usato il francese. Ci ha già raccontato che arrivi al Guerino praticamente da ragazzo di bottega, che poi fai tutto il tuo cursus honorum, da anni questo giornale lo dirigi. Ci ha già anche raccontato di due collaboratori di grande prestigio, uno storico che è Roberto Beccantini da tantissimi anni fino al Guerino, uno più recente, ma giù il cappello davanti al mio amico Gianni Mura. Io per loro due non spenderei, insomma, non risparmierei tempo, no? Visto che la conversazione poi si nutre di altro. Io sottolineerei la presenza tra i collaboratori tuttora di Adalberto Bortolotti. Perché? Perché dicevo prima che tra le caratteristiche del Guerino ce ne sono sempre state due, tre a parer mio vincenti. Una l'hai ricordata tu, il dialogo con i lettori. L'altra, si diceva insieme prima, la vis polemica, che non è mai mancata dalle origini ai giorni nostri e che tu continui a perseguire. La terza è la competenza tecnica, lo spessore tecnico, soprattutto in ambito, direi, sì, particolarmente in ambito calcistico. Ora, io ritengo che un uomo come Adalberto Bortolotti, che è un amico caro di Radio 24, io credo che in una editoria sportivo-calcistica autorevole, oggi sarebbe tuttora, a dispetto dell'età che non è veneranda, ma insomma che non è nemmeno più verdissima, sarebbe tuttora conteso a peso d'oro per la sua competenza storica di calcio. E invece, per fortuna, che c'è il Guerin Sportivo mensile e ogni tanto Radio 24. Sì, sono molto d'accordo su questo discorso, cioè secondo me Adalberto Bortolotti è il più bravo giornalista sportivo di complessivamente, insomma, di questi 30 anni di storia, soprattutto del calcio. Lui si occupa facilmente calcio, anche se poi appassiona in altri sport, però diciamo principalmente di calcio. Cioè per me Adalberto Bortolotti, che io non ho avuto come direttore, nel senso che lui è stato direttore del Guerino prima, però io ancora dovevo entrare, l'ho avuto prima, diciamo, come modello, nel senso da lettore, e poi l'ho oggi come preziosissimo collaboratore. Anch'io faccio fatica a aggiungere tante cose, Gigi, ad Adalberto, perché rischio di essere retorico, insomma, vabbè, però più di dire che per me è il più bravo giornalista, credo che già l'abbiamo chiuso in questo modo. Però aggiungo, avendo con lui, come dire, un rapporto anche lavorativo, la sua disponibilità, cioè la sua classe, perché Adalberto è veramente un uomo di classe, e ha classe nello scrivere, nel sostenere le sue idee, nel modo in cui le espone, ma anche nei comportamenti, nella disponibilità. Io qualunque momento l'ho chiamato, perché avevo bisogno appunto per qualcosa, che si occupasse di qualcosa, puntualmente è sempre stato pronto a farlo, e credo anche con la generosità nei confronti del giornale. Chiaro che anche per lui sono 30 anni di Guerino, come ha scritto nella puntata che l'ha riguardata, abbiamo dedicato tutta una puntata praticamente a lui e alla sua direzione, e lui ha ricordato giustamente che sono 30 anni, insomma, è un fuoriclasse, il nostro tridente, visto che va molto di moda il tridente del Napoli e della Roma, il nostro tridente è Gianni Mura, Roberto Beccantini ad Alberto Bortolotti. Credo che non siamo messi male. No, non siete messi male, anche perché in attesa, ripeto, di scoprire domattina in edicola com'è il Guerino dei 100 anni, l'ultimo numero che stavo sfogliando adesso mentre ti parlavo, il dossier firmato da Alberto Bortolotti, A che gioco giochiamo, con i principali schemi di tutte le squadre, cioè di tutte le squadre del campionato, e cioè le disposizioni tattiche più significative, sono eccellenti. Io ricordo che da questi microfoni, alla terza, forse alla quinta partita di Ibrahimovic a Torino con la Juventus, cioè il suo debutto italiano, ci fece un ritratto di Ibra assolutamente per allora inedito, strepitoso. Cioè ci raccontò di questo finto centravanti, che in realtà era un trequartista, che aveva dei piedi lunghi come valigie, ma con la sensibilità di un ballerino, e solo Van Basten fino ad allora aveva avuto dei piedi così lunghi e così sensibili, perché c'era sempre stata anche la vecchia teoria che più il piede era corto e più il piede aveva sensibilità, la potenza fisica, tutto il resto, il suo veramente non anticipò di mesi e poi di anni quanto un giocatore del genere sarebbe stato determinante, dato che da allora ogni squadra che ha voluto vincere un campionato ha dovuto avere Ibrahimovic dentro. Beh, diciamo che ci ha preso così a grandi linee. Sì, aggiungo che ci prende spesso. Io molte volte devo dire che mi confronto e gli chiedo lumi, cioè magari di fronte a una squadra che cosa può succedere, gli chiedo appunto qualche idea e generalmente ci prende alla grande, quindi è una bellissima bussola ad Alberto Bortolotti ed è una fortuna averla in questo senso. Spesso ci capita anche ovviamente di parlare di Bologna per fatti territoriali, insomma, e in genere la sua previsione anche di come andrà tutta la stagione e di come finirà la zecca, la prende. Senti, non so se certamente tu ne sarai a corrente, magari lo troviamo nel numero di domani, ma io ho chiesto al mio fedele collaboratore Franco Piantanida se per caso riusciva a sorprenderti, a spiazzarti, no, su una cosa di cui non si è parlato. Tu lo sai che il primo numero del Guerin Sportivo beccò immediatamente una querela? Invece questo non lo so. Questa è una grande chicca. Allora, questa è veramente una grande. Allora, leggo dalle fonti, no, che ha ricavato, ma insomma è qua, ce l'ho sotto io. Primo numero, prima querela. Se è record assoluto non è dato sapersi, ma certo è che il Guerin Sportivo, fedele alla sua filosofia del non mandarle a dire, si fece riconoscere fin da subito. La notizia emerge da un'attenta ricerca online sul formidabile archivio del settimanale La Stampa, che nel lontano 1912, anno di nascita del Guerino, faceva sapere da un commento firmato da Nino Salvaneschi, uno dei sei fondatori del settimanale, il quale aveva fatto infuriare l'aviatore Umberto Savoia. Il pezzo incriminato si intitolava Il ribelle e Savoia, che era tale di cognome ma non di dinastia, aveva chiesto una pronta smentita all'autore, nella quale chiedeva le scuse, altrimenti avrebbe anche potuto arrivare a sfidarlo a duello, cosa del tutto usuale a quel tempo. E poi da lì segue tutta la vicenda che ti andrai a vedere e che a sto punto troveremo, non lo so, quando, per il bicentenario la pubblichi? La pubblicheremo certamente nell'anno, anche per interessante. Tra l'altro ci vedo tra le righe, credo, la mano di Davide Rotta, che è un nostro storico bravissimo, che ha ricostruito molto della storia del Guerin Sportivo. E questo numero che troverete da domani mattina ripercorre la storia dei sei fondatori, perché è bella anche quella, cioè va ricordato come nasce il Guerino, cioè nasce in una Torino che ha smesso di essere capitale politica, ma che sta di fatto diventando capitale culturale anche del pensiero liberale italiano, sta per arrivare Gobetti, insomma sta per arrivare una Torino che si riscatta nella cultura, quello che ha perso dal punto di vista politico. Sono sei ragazzi, diciamo oggi li avremmo definiti intellettuali, comunque sei studenti, qualcuno che ha appena iniziato le collaborazioni sui giornali, e Corradini ne è un po' il capo, quello che guida. Tra l'altro abbiamo trovato, anticipo anche questo, lo troverete sempre nel numero di domani, la figlia di Corradini che racconta del papà. E quindi questi sei ragazzi si mettono insieme e fanno questo giornale prendendo un nome, che questa è un'altra delle bizzarrie, Guerin Sportivo, riprendendo un nome, mutuando un nome di un eroe cavalleresco dell'epoca carolingia, che è il Guerin Meschino, e lo trasformano in Guerin Sportivo perché comunque deve essere un cavaliere che punge con lo staffile, tant'è che c'è nel famoso, diciamo, nell'iconografia, c'è il Guerinetto che con la penna punge e colpisce. Vero. E noi speriamo nel nostro piccolo Gigi di colpire ancora. Ah, ma io su questo ho pochi dubbi. Certo, se si usassero le usanze cavalleresche di allora, cioè ci si sfidasse a duello, oggi ho l'impressione che ne avremo di cose da fare, no? Perché allora quello era il parametro primo in caso io temerei per la nostra sorte, perché temo che qualcuno di quelli che sfidiamo, forse armato non di sciabola ma di qualcos'altro, visto i loschi figuri che a volte ci sono. Certo, su questo non c'è dubbio. Senti, concludiamo con calma, perché insomma i nostri 2-3 minuti ce li prendiamo ancora. Concludiamo con uno sguardo sul futuro, perché è ovvio che un centenario va celebrato con un minimo di torcicollo, guardando all'indietro e tutta la strada che si è percorsa. Però io mi auguro che ne resti da fare. E quindi, con lo strapotere televisivo da una parte, con insomma, le difficoltà che l'editoria in generale attraversa oggi, che strada può percorrere il Guerino per arrivare appunto ai 200? Ma intanto, secondo me, deve salvaguardare il suo patrimonio, che è quello che abbiamo detto finora, cioè di visualizzare visuale, di visione sullo sport, ma non solo, anche sul sociale, sulla vita. Spesso mi sono trovato a scrivere anche pezzi che erano molto al confine fra sport e altro, anche i miei editoriali, non è che mi occupo sempre espressamente di 4-4-2 o 4-3-3. Il futuro, io ho scritto sempre su questo pezzo di domani, che probabilmente sarà un altro materiale. Credo che la carta, noi non lo vedremo, ma non credo che arriverà al secondo centenario, però credo che il Guerino ci possa arrivare sotto altre forme, sotto altri media. Nessun media scompare, questo un po' insegna la storia, cioè magari cambia, magari si riassetta, però difficilmente, quindi credo che sarà magari sotto altra forma, ma secondo me ci sono delle buone possibilità che rimanga. Questo è stato un anno molto difficile per tutta l'editoria sportiva, hai fatto bene a ricordarlo, nel senso che proprio quest'anno è caduto, ha chiuso i battenti dopo 40 anni Don Balón in Spagna, che era un po' il nostro fratello. Ecco, bene. Quindi Don Balón non esce più. Io credo che questa sia una notizia tristissima per chi come me, come te, l'ha sempre letto. Insomma, è stato un giornale di riferimento, è un po' il nostro fratello iberico. Il Grafico, che fu un grande giornale negli anni 70, soprattutto in coincidenza col Mondiale in Argentina, per un lungo periodo non è più uscito, poi adesso loro sono diventati mensili, però anche loro stanno attraversando difficoltà, la stessa cosa è toccata a Placar. Cioè, è chiaro che molto, diciamo, della centralità che rappresentava la carta oggi non è più possibile. Il Guerino, noi abbiamo tentato questa operazione, spero, come dire, riuscito, i numeri direbbero di sì, cioè di trasformarlo da un giornale di informazione o comunque legato all'attualità, che raccontava l'attualità, a un giornale più per appassionati, cioè più legato alle passioni e alle emozioni, tant'è che siamo molto rivolti per esempio agli Amarcord, al passato, perché la corsa sull'attualità non è più possibile. Cioè, il problema del settimanale oggi è di un po' di tutti i news magazine, non soltanto quelli sportivi, è da che punto lo racconti, cioè qual è il momento zero del calcio, perché non c'è più un momento zero. Certo, una notizia di 2 ore prima è vecchia ormai, no? Quindi... Sì, poi prima tu comunque avevi almeno la domenica pomeriggio come momento, sì, diciamo, appunto, come culmine del momento sportivo, e da lì partiva il momento zero, per cui il Guerino arrivava il martedì, il mercoledì. Tra l'altro molti, ad esempio, dei lettori rimpiangono e ricordano con grande affetto il fine del campionato, che è stato un po' un totem del Guerino. Però sai, il fine del campionato oggi che sapore ha rispetto ad allora, quando tu avevi appena 90° minuto, un quarto d'ora, e non vedevi nulla? Io mi ricordo da lettore, qui mi spoglio dei panni di giornalista, ma mi ricordo da lettore a 7, 8, 9 anni andavo in edicola per vedere Keegan, perché Keegan non si vedeva. E mentre oggi faccio l'equivalente con Rooney o con altri giocatori, uno addirittura attraverso Twitter sa che cosa sta facendo in questi istanti Rooney. Non c'è dubbio. E quindi è chiaro che è stato uno stravolgimento generale, per cui ci siamo rivolti più, diciamo, a un pubblico appassionato, che cerca quindi un'informazione diversa rispetto alla rutilante informazione di Sky Sport 24, dei siti internet, eccetera. Ripeto, il bilancio è positivo, perché probabilmente c'è ancora in una parte di pubblico la ricerca di un'informazione non appiattita sull'attualità. Certo. Una volta era su carta, carta diversa, in formato lenzuolo, bianco e verde, adesso è patinato, domani probabilmente, non, forse un giorno, non lontanissimo, ce l'hai detto, non sarà più su carta, ma comunque vediamo se riesce ad arrivare ai 200, l'augurio certamente è questo. Grazie Matteo. Grazie a voi, grazie mille. Allora, in questa giornata dedicata allo storico centenario del Guerin Sportivo, che cade domani, dopo il direttore attuale Matteo Marani, ne ascoltiamo uno degli storici che l'hanno preceduto, per esempio Marino Bartoletti. Ciao Marino. Ciao Gigi, è sempre un piacere parlare con te e con gli amici di Radio 24, per tutti i motivi che sai. Che conosco, grazie. Dunque, io ho letto quello che tu hai scritto nel numero scorso, l'ultimo, prima appunto di compiere questi fatidici 100 anni, che hai scritto rievocando le tue direzioni del Guerino, e ti dirò che la prima cosa che mi ha, lo so che, ma insomma, in questi giorni di festa ci sta, no? Anche se sei un pochino intriso di retorica, se vuoi, ma poi è la verità, cioè il Guerino aveva l'età di tuo padre. L'ho scritto e non l'avevo mai detto, però nel momento di questa rievocazione, insomma, non potevo non citarla, questa quasi magica casualità. Anche lui compierà 100 anni fra pochi mesi, e mi ricordo, e questo l'ho scritto, l'orgoglio con cui lui mi vide diventare direttore del Guerin Sportivo, che era quasi pari al mio, perché tu sai che io sono nato col Guerin Sportivo, il Guerin Sportivo di Brera, quello che i ragazzi della nostra età ricordano. Io ricordo quando in un angolino in piazza Duca d'Aosta a Milano, perché allora era ancora Milano, guardavo Brera lavorare, era come se un chierichetto stesse guardando il Papa che diceva messa, e non c'è dottor Faust e non c'è diavolo che avrebbero potuto fare un patto per cui io di lì a qualche anno sarei addirittura diventato il successore indegno di Brera e il direttore del Corriere Sportivo. Senti, già, allora torno un attimo in quell'angolino e raccontaci che cosa voleva dire in termini di alternanza già di sigaro, pipa, sigarette, cosa voleva dire vedere Brera tasteggiare furiosamente? Non è facile, Gigi. Mi rendo conto che non sia facile esprimere un sentimento di questo tipo con le parole. Per me era ovviamente il più grande giornalista sportivo italiano. Mi fa un po' sorridere il fatto che questo grande vecchio allora era molto più giovane di quanto tu ed io non siamo adesso, rimossi le malinconie. Vabbè. Lui aveva questo ufficetto, ripeto, all'ottavo piano di Piazza Duca d'Aosta, editore il Conte Rognoni, e sfornava credo una ventina di cartelle a numero. Anche in questo caso è difficile far capire a chi ci ascolta che cosa vuol dire scrivere di getto e con poche correzioni una ventina di cartelle, perché lui faceva l'arcimatto, perché faceva l'arciposta, perché faceva l'editoriale, perché faceva la partita più importante, pigiava i suoi ditoni su questa lettera 32, e io veramente in un angolino in fondo al corridoio sentivo questo ticchettio. Lui ogni tanto faceva finta di farmi vedere queste cartelle piene di saggezza professionale, perché insomma poi anche Brera è difficile da raccontare a chi non sa chi è Brera, quindi non ci provo neanche, e io facevo finta di correggerlo, nel senso che puoi immaginare quanto potevi incidere la mia revisione su quelle cose. E la cosa curiosa poi, di lì a poco io passai dal Guerin Sportivo, che è stato il mio primo vero importante giornale al giorno, e anche lì Brera era un problema, quindi ha segnato veramente la mia vita professionale. E pensa che emozione quando, scusa se salto di palo in frasca, poi ti seguirò nella cronologia del racconto che vorrai suggerirmi, quando al mio primo anno di direzione del Guerin Sportivo organizzai la prima festa del Guerin d'Oro, che credimi era veramente una specie di Oscar del calcio italiano, e potei premiare i miei tre immediati predecessori, che erano Adalberto Bortolotti, Italo Cucci e Gianni Brera. Insomma, ero piccino davanti a loro. A parte il fatto che mi hai inevitabilmente ricordato, no, che poche ore dopo che tu vedevi scrivere Brera e gli davi quel contributo che potevi, io poi la mattina dopo sotto i banchi della statale, no, anziché seguire più direttamente diritto privato o commerciale, insomma, avevo queste lenzuolate bianco e verdi di Brera, e la giornata di lunedì non poteva che cominciare così. Beh, il fatto che tu abbia detto, scritto, ma non soltanto in questa occasione, che potrebbe parere inevitabile, ma l'abbia detto e ripetuto spesso, che di tutto quello che hai combinato in carriera, che non è esattamente pochissimo, la direzione del Guerino è la cosa di cui vai più fiero, qualcosa significa, mi pare. Guarda, l'ho detto, l'ho scritto, e tu sai bene che lo penso. Certo. Cioè, io credo di aver avuto una decina di direzioni nella mia vita, alcune non esattamente banali, dalla direzione di Rai Sport, alla direzione dello Sport Infinibest, altre cosette più o meno importanti. Però quando qualcuno alla mia ormai veneranda età mi chiede qual è stata la cosa più importante che professionalmente ho fatto nella mia vita, dico sempre la direzione del Guerin Sportivo. Cioè, quello è stato veramente il mio terzo figlio, perché comunque si coronava un sogno insognabile, Gigi. Cioè, non era possibile che un ragazzino di provincia come me, che il Guerin Sportivo non lo vedeva il lunedì, perché dove stavo io arrivavo il martedì, a volte anche il mercoledì, potesse pensare che quel foglione, perché forse i giovani amici non sanno che allora era un grande quotidiano, cioè aveva le dimensioni di un grande quotidiano, conservava ancora il suo imprinting verde nella testata, e dentro c'era tutto, perché c'era la professionalità del racconto, c'era la modernità del racconto, c'era l'ironia e la sdrammatizzazione del racconto, c'era la cultura dello sport attraverso firme straordinarie. Senti, tu arrivi nell'87, mi pare, no? Alla direzione del Guerino, ed è un anno, un'epoca, in cui il fuoco di sbarramento televisivo comincia a dare seriamente, certo non come oggi, ma comincia a dare seriamente fastidio alla carta stampata comunque. Sì, io arrivo al Guerin Sportivo quando il fuoco è già pesante, però forte, e tu lo sai bene perché qualcosina abbiamo combinato anche insieme, sì, certo, di discrete esperienze televisive, il che mi consentiva di, come dire, conoscere il nemico. Un nemico che era battibile, Gigi, con la fantasia, con la creatività, con l'impegno, con il desiderio di guidare una squadra, di migliorarsi e di migliorarla. E lasciami dire, poi direi tu quello che vuoi, che l'autorevolezza, la capacità di comunicazione del Guerin Sportivo, la credibilità del Guerin Sportivo e anche la sua capacità di ironizzare con serietà sulle cose dello sport, forse non ha più avuto eguali nella storia dell'editoria italiana. Guarda, mi scappa ma la dico, cioè adesso vedo un importante quotidiano sportivo che ogni giorno fa dei titoli calambur, no? Su alcuni riusciti bene, altri riusciti male, insomma noi li facevamo 25 anni fa, Gigi, poi ci stancammo di farli perché un giorno guardandoci in faccia, dopo che presentando il campionato spagnolo col titolo Viva la Liga, dicemmo no vabbè, ok, cambiamo strada. Siamo arrivati a capolinea ed è passato un quarto di secolo, no? Se non sbaglio, circa. Sì, esatto. Circa, e c'è il principale quotidiano, vabbè, insomma, il messaggio è arrivato. Senti, hai scritto questo aneddoto fantastico, però vorrei che la raccontassi a chi non ha letto l'ultimo numero del Guerino, e in attesa di quello di domani, ripeto, in edicola, del centenario, vorrei che la raccontassi tu di quando hai spedito il fotografo Borsari a indossare una maglia particolare a Mosca. Perché questa allora, c'era sparsa voce che Zavarov, come si diceva allora, stava per arrivare alla Juventus e sarebbe effettivamente arrivato alla Juventus. Noi avevamo veramente la mania di anticipare i tempi e spesso ci riuscivamo, perché riuscivamo a fare delle copertine, apro una parentesi successiva per dire che la prima copertina di Maradona con la maglia del Napoli la fece il Guerin Sportivo, e ero soltanto inviato in quel momento a New York, non ero direttore, però insomma avevamo questa fisima di anticipare sempre i tempi. Allora io paracadutai a Mosca, dico Unione Sovietica, certo, dico la Luna, mica oggi, il buonissimo e impotente davanti ai miei deliri Stefano Germano, che ricordo ancora con un affetto incredibile, e il giovane fotografo Maurizio Borsari. Poi se vuoi apriamo anche una parentesi sull'importanza dei fotografi dei vignettisti nella storia del Guerin Sportivo. Bene, l'apriamo subito dopo che ci finisci Mosca, perché questa vale la pena. Insomma, io li paracadutai a Mosca un venerdì pomeriggio dicendo: mi trovate Zavarov e gli mettete una maglia della Juventus, tornate indietro, tu Germano fai un articolo e tu Maurizio Borsari fai la copertina del prossimo numero. Allora che c'erano i manicomi si poteva essere ricoverati per molto meno. Sì, sì. Insomma, questi due andarono a Mosca, trovarono, non so come e non lo voglio sapere, Zavarov, gli misero una maglia della Juventus. La settimana dopo il Guerin Sportivo uscì con Zavarov e la maglia della Juventus. Mi telefonò Boniperti, che mi degnava ogni tanto delle sue telefonate, che non erano sempre affettuose. Immagino. Provo a citarla testualmente dicendo: ma come cazzo avete fatto a trovare Zavarov, che noi è una settimana che lo cerchiamo. La chiuderei qua. Perché... scusa per lo cerchiamo. No, cioè, scusa, lo cerchiamo, che è una parola assolutamente scorretta, radiofonicamente parlando. Dunque, i fotografi e i vignettisti. I vignettisti partiamo da lontano. Quando io arrivai al Guerin Sportivo c'era, come sai, una tradizione straordinaria che veniva dallo stesso Carlin, che era direttore vignettista nei tempi dei Carlo tempi. Bergoglio, leggenda. Esatto, al grande Marino, curiosamente, il grande Marino, Marino Guaguaglini. Anche qui è difficile, sai Gigi, spiegare ad altri che non siano nostri contemporanei che cosa c'era in quelle vignette, quella di Rocco e Carosio, quella di Fraizzoli, quella di Arrica, e aiutami tu a ricordare, erano non vignette ma editoriali. Sì, sì. Cioè in un disegno di Carosio sulle nuvole, e in una battuta che quasi sempre era del conte Rognoni e non di Marino, che impazziva a seguire i deliri, perché in genere del conte Rognoni sportivo deliravano, c'era scritto quello che in un'articolessa di tre cartelle noi stessi non saremmo mai riusciti a scrivere. E quindi quando dicevo prima che il racconto dello sport del Guerin Sportivo, quello là, era un racconto straordinariamente moderno, straordinariamente avanti coi tempi, che mi vanto in qualche modo di avere ripercorso in quella che è stata la mia direzione, beh, credo di poterlo dire con totale cognizione di causa. Io in casa ho un ricordo meraviglioso, 10 vignette autentiche che Marino mi regalò, purtroppo senza didascalia, perché la didascalia veniva aggiunto dopo, e credo che sia forse uno dei cimeli più belli che ho nella mia, come dire, storia di raccoglitore di cose d'epoca. Sì, anche perché se possiamo anche fare un inciso su Bartoletti collezionista, poi, che non è proprio una figura secondaria, se vogliamo. Guarda Gigi, il Bartoletti collezionista ha una lacuna terribile. Quando io andai via dopo 3 anni memorabili, indimenticabili, commoventi della direzione del Guerin Sportivo, incautamente non portai via con me la collezione dei i numeri, che erano 160 circa, che avevo diretto. E mi fa molto invidia il fatto di vedere molti miei predecessori barra successori che invece giustamente sono presi questa liquidazione spontanea. Insomma, io fino a poco tempo fa ero disperato perché purtroppo, e Matteo Marani te l'avrà confermato, la collezione cartacea del Guerin Sportivo in questo momento è andata quasi dispersa. Mm-hmm. Per cui, insomma, io ho comprato tutti i miei numeri del Guerin Sportivo su eBay. Ho speso un capitale, fortuna, certo. Però sono molto felice adesso? Di averli recuperati, perché ho anche ritrovato cose che io stesso non ricordavo. Prima di tornare in compagnia di Marino Bartoletti del centenario del Guerino, insomma, un altro marcord d'autore a sua volta, che è quello di Nicola Filippone. Sentiamo cos'è accaduto in un 3 gennaio. Sembra ieri. 3 gennaio 1954, con l'inizio ufficiale delle trasmissioni Rai, nel palinsesto c'è anche la Domenica Sportiva, che però è già la 13ª puntata, avendo iniziato nella fase sperimentale della TV italiana, l'11 ottobre 1953. Nel primo giorno di trasmissioni ufficiali, quella che diventerà la più antica trasmissione giornalistica italiana, manda in onda, a partire dalle 23.15, una sequenza di filmati. Si parte con Inter Palermo. I nerazzurri, guidati da Alfredo Foni, primi in classifica, si impongono per 4-0, con tripletta di Sergio Brighenti e gol di Gino Armano. Marino Bartoletti, la storia del Guerino, la storia in particolare della tua direzione del Guerino, un giorno incocciò anche in un episodio altamente drammatico, proprio allo stadio di Bologna. Sì, era quasi Capodanno, il 30 dicembre del 1989, e durante la partita fra Bologna e Roma si accasciò a terra a Lionello Manfredonia, che con grande clamore, ricorderai, era passato dalla Lazio via Juventus alla Roma, quindi non amatissimo della Roma, certo. E curiosamente era di fronte a suo fratello, perché Bruno Giordano giocava nel Bologna. Mm-hmm. Stramazzò il suolo, non si capì bene cosa successe, ebbe un arresto cardiaco, un gravissimo. C'è un freddo cardiaco. Tra l'altro quel giorno. Sì, qualcuno dice che fosse anche la concausa assieme ad altre cose di questo arresto cardiaco, e Lionello ebbe, fra virgolette, una grandissima fortuna nella sfortuna di farsi venire il coccolone, come si dice tecnicamente, a Bologna. Per cui in pochi minuti venne defibrillato, portato all'ospedale maggiore che era lì vicino, e sorprendentemente gli venne salvata la vita. Fu un episodio che fece naturalmente molto scalpore, perché insomma già eravamo abituati a episodi drammatici sui campi, ma quello fu veramente terribile. E poi naturalmente non dimenticai di essere un giornalista. Per mia fortuna gli salvò la vita il primario dell'ospedale di cardiologia dell'ospedale maggiore, che era stato un mio compagno di scuola. Riuscì a rintracciare Manfredonia, perché poi l'animalaccio che è in noi non si ferma davanti alla pietà cristiana, nessuno lo trovava, era ospite nascostissimo a Milano Marittima, a casa di Antonio Cabrini, gli chiese se potevo fargli un'intervista e gli dissi: guarda, io ti posso solo proporre una cosa fatta con garbo, però ti posso dare qualcosa in cambio. In cambio di questa intervista il mio editore offrirà un'ambulanza con defibrillatore da tenere allo stadio di Bologna. Ah, però. E la cosa avvenne, noi facciamo questa intervista che fece impazzire i quotidiani. Era già successo e sarebbe successo altre volte, Gigi. Mi ricordo che questo, veramente da povero cronista, nel 1982 feci l'unica intervista a direttore Cucci a Bearzot, appena diventato campione del mondo, e tutti i quotidiani furono costretti a inseguirci, anche nel caso di Manfredonia, che fotografammo, che raccontò questa storia, e questa storia fertilizzò, come dire, la speranza e la salvezza di chiunque avesse avuto dei problemi in un campo di calcio nei mesi e negli anni successivi. Certo, senti, cambiamo, andiamo su un segno opposto, no? Perché questo è un marco drammatico, poi ce ne sono di allegrissimi, per esempio quando ti inventasti passa una giornata col tuo campione, che suscitò tempeste ormonali anche, no? Credo, in tante tifose, no? Di allora. Sì, guarda, chi mi seguiva in questi miei deliri guerineschi adesso può ancora sorridere, però io avevo un vulcano di creatività, perché al di là del prodotto cartaceo poi ogni giorno mi inventavo qualcosa, anche se poi nel giornalismo né televisivo né stampato si inventa più nulla. Però sì, con la collaborazione della Ferrero, se non ricordo male, dati i buoni rapporti che noi avevamo con tutti i campioni di allora, ma parlo di Maradona, parlo di Gullit, parlo di Vialli, parlo di Mancini, parlo di Zenga, e dimmi tu chi può mancare. Insomma, inventai questa cosa per cui un nostro lettore, in cambio, mi sembra, di un disegno, poteva vincere una giornata col campione. E lì successero cose, da una parte, molto divertenti. dall'altra drammatiche, perché mi ricordo che una ragazza che doveva passare una giornata con Maldini ebbe un problema all'appendice il giorno prima dell'incontro e venne rincorso dai genitori perché non poteva più andare a Milanello, praticamente con le flebo attaccate, perché lei voleva assolutamente vedere la sostituta che prese il suo posto da Maldini, svenne davanti a Maldini. Tanto per allora era il bellissimo del calcio italiano. Tanto per stare leggeri, beh, insomma, ne avete combinato. Pare che a un certo punto, quando il Guerino usciva, non bastava il cellophane, credo, no? Tanti erano i gadget che c'erano dentro, non so cosa c'eravate, le sacche per trasportare. Fu un anno, Gigi, in cui mi accorse di quanto pesasse la mia fatica, perché non so quale capodanno, quando noi facevamo i numeri di Natale, che erano quelli particolarmente pesanti, tieni presente che ci avvicinavamo al Mondiale del 90, che era un grande risucchio. Veri però, perché tra distintivi, gadget, c'era di tutto dentro. Distintivi, pecette di stoffa delle maglie delle nazionali che avrebbero poi giocato il Mondiale del 90, inserti storici come la storia dei mondiali, certo, e tante altre cose che invidio chi ha raccolto e lo trovo ogni tanto sui mercatini e pretenderebbe pure di vendermelo. Beh, insomma, abbiamo fatto veramente una piccola storia dell'editoria di quegli anni, devo di poter dire, sì, anni veramente irripetibili. Sì. Senti l'affetto e quasi l'emozione con cui ne parli. Certo, ma la sento, sì, infatti. E infatti mi verrebbe da dirti, forse lo facciamo, finiamo dopo con i fotografi, perché erano rimasti in sospeso i fotografi, mi verrebbe da dirti, proprio sulla base di questa esperienza, ma tenendo conto ovviamente che oggi siamo nel 2012, che molto è cambiato, che insomma che ci sono canali tematici sportivi dalla mattina alla sera, che è ovvio che bisognerà sempre battere strade nuove, che forse la carta, come ci diceva prima Marani, anche nel caso del Guerino, potrebbe non avere un lunghissimo futuro. Tu daresti un consiglio, avresti un consiglio da regalare al tuo successore? No, Marani è molto bravo, devo dire molto bravo, perché interpreta con uno spirito molto romantico quello che secondo me è la missione ancora contemporanea del Guerino Sportivo. Cioè lui deve molto insistere con garbo e contemporaneità sulla cultura della memoria. Ora sì, può sembrare una cosa nostalgica detta così, però tu sai meglio di me, perché spesso comunque strizzi l'occhio alle storie del passato che possono essere fertilizzatrici del presente e del futuro, quanto sia bello affondare nei ricordi. E il Guerino Sportivo è una miniera, Gigi, è veramente una miniera di immagini, di racconti, di tesori custoditi in questo e in quell'armadio, e Marani deve lavorare molto, ma molto, molto su questo. Tu che hai fatto libri belli, importanti, su Rocco, su Bearzot, ecco, secondo me il Guerino Sportivo, a costo di essere nei limiti del possibile monografico, dovrebbe raccontare sempre la storia di qualcosa e qualcuno che hanno fatto la storia vera, gli insegnamenti veri del calcio italiano e quindi dell'Italia stessa. Beh, ma ti dirò che presto ti chiederò di sfogliare la tua collezione, perché, e questa è una piccola anteprima, ormai siamo i primi giorni dell'anno, in maggio a Trieste si inaugurerà una straordinaria mostra dedicata ai 100 anni della nascita di Rocco. E dato che di questa mostra insomma, occuperò in prima persona, anzi mi sto già occupando in prima persona, beh, intanto i tesori di immagini che ho trovato nelle teche Rai te li lascio immaginare, di Rocco e non solo di Rocco, della sua epoca, perché poi sarà una storia che, partendo dai 100 anni di Rocco, racconta la storia, una parte di storia del calcio italiano. Ma certamente dovrò saccheggiare la collezione del Guerino per trovare gli amici. Io fin da adesso ti prometto che ti porterò un originale di Marino Guarguaglini, sì, di Rocco che è attaccato a una damigiana, se non ricordo male, che parla con Carosio. E dove vuoi che fosse attaccato? Se me lo assicuri, sì, al prezzo della dama dell'ermellino, almeno così. Ma io ne parlerò con gli organizzatori veri e soprattutto finanziari della mostra e gli dirò che appunto andrà trasportato e assicurato, come si fa con i quadri degli impressionisti, no? Che girano dall'Ermitage piuttosto che dal Musée d'Orsay, arrivano per le mostre in Italia. Io personalmente, se mi dai un biglietto per quella mostra. Sì, il biglietto per la mostra è garantito sin da ora, Marino. Senti, prima che ci dimentichiamo, perché poi il tempo sta passando, i fotografi, perché sono cresciuto, piccolo amarcord personale, io sono cresciuto con lo Sport Illustrato, perché nel Piemonte del Nord dove vivevo io il Guerino arrivava, ma diciamo che lo Sport Illustrato era più diffuso, non so perché. e mi ricordo quanti gol della domenica io il martedì vedevo effigiati, ritratti, fotografati o qualcuno ricostruito con disegno sullo Sport Illustrato. I fotografi del Guerino sono stati una delle spine dorsali della storia del Guerino. Sì, quelli di cui parli tu erano gol disegnati a colori, perché le foto erano in bianco e nero, le copertine venivano pittate con l'acquerello. Questo è vero. Le nostre invece erano foto a colori e i nostri fotografi erano la razza guerriera del Guerin Sportivo, ecco. Era una razza temutissima perché allora non c'era la teletrasmissione, quindi io mandavo questi zombie in giro per l'Italia. Ripeto, non c'erano teletrasmissioni, quindi mi sembra di parlare della preistoria, e cascasse il mondo la domenica sera, dovunque fossero, insidiando le hostess dell'aeroporto di Cagliari, sfidando la nebbia se non poteva alzarsi un volo da Napoli, facendo non so che cosa, evidentemente fenomeni di telecinesi da Catanzaro, cascasse il mondo, i rullini di quelle diapositive dovevano essere da Villani a sviluppare a San Lazzaro di Savena, e il mondo non è mai cascato. Marino, non cascherà nemmeno per il centenario del Guerino di domani e non posso che nel frattempo ringraziarti per questa tua ennesima straordinaria partecipazione. Sono io che ringrazio te e l'affetto con cui ricordi questo grande, vecchio, immortale guerriero che io porto idealmente nel petto e soprattutto nel cuore. Buon anno ancora, grazie. Ciao. A Franco Piantanida in assistenza, grazie a Rudy in regia, buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.